credo che tutti quanti pensiamo di conoscere la Costituzione tanto bene, perché l'abbiamo ricevuta in regalo quando abbiamo compiuto il 18° anno, perché insomma tante sono le occasioni in cui insomma abbiamo avuto fra le mani la Costituzione, ma credo che non tantissimi siano consapevoli di quello che la nostra Costituzione ci potrebbe assicurare in termini di diritti, in termini di doveri. Quindi il nostro progetto, insomma, si rivolge proprio a tutti coloro che, pur pensando di conoscerla, probabilmente potrebbero approfondire alcuni aspetti della Costituzione che oggi purtroppo sono inattuati. Infatti volevo proprio fare una domanda su questo: ci sono diversi diritti sanciti dalla Costituzione che non vengono pienamente garantiti? Che non vengono pienamente garantiti, che dalla promulgazione della Costituzione purtroppo hanno anche perso valore rispetto a quello che i nostri costituzionalisti avevano sperato, insomma, di poter assicurare a questo Stato, insomma, all'Italia. Credo che se analizziamo, insomma, alcuni articoli, partendo dal primo, il diritto al lavoro, io credo che ci sia ancora tantissimo da lavorare su questo diritto, un diritto che sulla carta assicura il lavoro per tutti, una giusta remunerazione rispetto alla quantità, rispetto alla qualità del servizio, del lavoro, ma io credo che ancora non si possa garantire che questo è un diritto garantito. Basta pensare alle differenze che ci sono, per esempio, nei confronti delle donne. A parità di lavoro le donne hanno un riconoscimento remunerativo inferiore, almeno così le statistiche mi pare di aver raccolto, intorno al 20% in meno. Questo ovviamente è una richiesta che avanziamo e che vorremmo approfondire. Ci sono degli eventi connessi a questo progetto? Sì, ci saranno una serie di eventi, intanto insieme con il coordinamento, insomma, Bologna, perché capoluogo, insomma, tiene un pochino le fila di questo progetto. Ogni provincia adotterà una parte, almeno dei primi 12 articoli della Costituzione, quindi faremo un calendario per ogni provincia, e ogni provincia svilupperà in base ai temi che avrà scelto incontri, approfondimenti con i giuristi, ma anche con le persone che possono così interessarsi a questi argomenti. Negli ultimi decenni abbiamo visto diversi tentativi di riforma costituzionale e l'AMPI coerentemente ha sempre osteggiato quelli che portavano a uno stravolgimento. La Costituzione è ancora per la politica di oggi un faro o ogni tanto c'è qualcuno che cerca di andare da un'altra parte? Sicuramente per me rappresenta, per noi dell'AMPI, non per me, ma rappresenta sicuramente un faro. In questi anni qualche cosa è stato anche modificato con il consenso, ovviamente, e con l'approvazione anche dell'AMPI. Abbiamo però resistito quando alcune modifiche andavano davvero a sottrarre ulteriori diritti che la Costituzione sancisse. Quindi saremo ancora i vigili della nostra Costituzione, ed è questo anche il motivo per il quale ci vogliamo impegnare in maniera molto forte su questo argomento, perché riteniamo che la Costituzione appartenga a tutti e deve essere ovviamente patrimonio di tutti, il conoscerla, il difenderla e chiederne davvero l'attuazione attraverso momenti di riflessione che saranno quelli che metteremo in campo.